for fun in my buggy. Buttalo fuori, così. Espulso. Espulso. Perché a me? Perché a me? Io non mi permetto di parlare con la panchina sua, lui non si deve permettere di parlare con la panchina mia, perché così però fa anche manca rispetto a me. Poi dopo io mi incazzo. Non devo aggiungere altro. Credo che non ero io che dovevo andare fuori. Io non ho bisogno di chiarire niente. Poi se lui vuole chiarire, io sono, anzi, con questo dito e così. Non lo so se lo faceva a me, se ce l'aveva ancora dito. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La certezza è che Stefano Pioli domani firmerà materialmente il rinnovo del contratto per 2 anni. Hanno preferito mantenere tutto in rigoroso silenzio per preparare al meglio questa partita. Poi dalla Germania, durante la partita, hanno anticipato che Ragnik non sarebbe arrivato al Milan. Hanno parlato di rinnovo del contratto con l'Ipsia. Pioli, così come Maldini e Massara, potranno continuare, no, in un percorso. Giochiamo con grande fiducia e si vede. Siamo tutti dietro mister, e è una situazione molto complicata. Sembra che Pioli resti, quindi potrebbe essere una svolta importante questa. Non lo so. Qua se fosse così ti piacerebbe? C'è novità tutti i giorni qua, allora non lo so cosa devo credere. Lo stesso Gazidis è venuto più spesso rispetto al passato, ma ha sempre manifestato la sua stima e il suo apprezzamento per il lavoro. Tu continui a vincere, dici io vinco, magari qualcosa cambia. Io ci speravo, sto bene con la squadra, sto bene nell'ambiente, sto bene con i tifosi, perché credo che il nostro lavoro è solamente all'inizio. Adesso rimaniamo attaccati, io ci speravo e lo volevo fortemente, quindi quando ho avuto la notizia sono stato molto felice. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno. Radio Tweet in rossonero? Sì, Radio Tweet in rossonero perché questa è una vittoria del merito, senza nulla togliere a Rangnick la possibilità, che era assolutamente legittima da parte del Milan, di cambiare strada, di cominciare un nuovo ciclo. L'ho detto mille volte, nessuno di noi sa come sarebbe andata. A questo punto dobbiamo usare questo tempo verbale. Nessuno sa come sarebbe andata con Rangnick, però credo che questa sia una vittoria della meritocrazia, nel senso che questa riconferma Pioli si è guadagnata sul campo in una fase complicata della stagione, ha tirato fuori il meglio dai suoi uomini, si è dimostrato, come era stato a Firenze, un leader non soltanto dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista dello spogliatoio. Quindi credo che sia, non so come andrà a finire, non so se sarà un successo anche in futuro, ma sicuramente è una riconferma meritata. Franco Ordine, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Come va? Come stai? Molto bene, mio caro, molto bene. Vedo che hai letto il mio pezzo di stamattina, perché anche io ho scritto che è il trionfo del merito sulla programmazione. È la prima cosa che faccio tutte le mattine. Io addirittura punto la sveglia, ho la segna stampa. Attenzione che ti sta crescendo il naso, non so se essere contento di questa cosa, che siamo d'accordo. No, sono contento perché siamo spessissimo d'accordo. È così. Sarebbe stato veramente. La cosa che mi colpisce di più, io devo dire francamente, che in questa situazione, in questa condizione, è il fatto che Gazidis sia uscito dal suo isolamento quando c'erano Maldini e Boban, che erano gli unici che frequentavano Milanello, e abbia cominciato a frequentare un po' di più, oltre che il luogo, cioè Carnago, anche e soprattutto le persone, secondo me è stato decisivo, perché ha toccato con mano il rapporto che c'è tra lui e i giocatori, tra i giocatori e lo staff, e quindi tutto questo ha giovato enormemente a innestare quella marcia indietro che secondo me è come dire, prerogativa delle persone umili e intelligenti. Sì. Hai pagato il pedaggio? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Ritirare la ricevuta. Ritirare, inserire la tessera. No, dai, sarebbe stato veramente qualcosa di stonato. Però, premesso che... Ma sai quali sono adesso i due grandi vantaggi di cui dispone adesso il Milan? Beh, così? Ce ne sono N, cioè quantomeno di proseguire su una strada e non ricominciarne una da capo, tendenzialmente. Due sono i vantaggi. Primo, utilizzare il ridottissimo tempo a disposizione tra la fine di una stagione e l'inizio dell'altra, con lo stesso clima, lo stesso staff, gli stessi allenamenti. E secondo, sapere perfettamente cosa serve a questa squadra per essere migliorata. Certo, ma vince la linea Pardo della ristrutturazione, non della rivoluzione. Della riforma. Però lasciami dire, il Milan, insomma, ieri sera alle 10:30 di un martedì di luglio, un caldo pazzesco, eravamo lì a guardare Sassuolo-Milan e già ci vorrebbe uno bravo per psicanalizzarci. E così a un passante esce la notizia che smonta in un attimo il castello tedesco costruito col bulldozer in 6 mesi, con tanto di Boban che va via strillando sulle pagine della Gazzetta, Maldini esautorato, Ragnik che fanno richieste. Però Maldini, scusa Carlo, però due cose voglio dirvi. Va bene così, però è inquietante il quadro, Franco, dai. Sì, no, però vi do una... No, su questo non c'è dubbio. Ma infatti che abbiano fatto marcia indietro è perché hanno riconosciuto che hanno fatto dei guai incredibili. Però devo dire che oltre al comportamento di Pioli, che non ha mai detto una sola mezza parola fuori contesto, ma la calma olimpica di Maldini, che tutti noi e lui stesso si considerava fuori dai cancelli di Milanello, e come dire, tra virgolette, l'abnegazione dimostrata in questo momento, in queste settimane, sono da premio Nobel. Sicuro. Grande eleganza di Maldini, di Pioli, di tutti, ma insomma, Ibrahimovic magari meno. Secondo me Ragnik non rinnova il contratto con Red Bull, volete fare? Tu dici? Beh, questo lo vedremo, fine sono problemi suoi. Poi vediamo che se c'è da pagare questa penale 2 milioni di cui si dice, perché il Milan non chiuderà il contratto, doveva essere prevista, si dice, con Ragnik. Comunque, al di là di questo, vorrei sentire anche i milanisti come vivono questa situazione. 800240024, resta il fatto che condivido con voi, a cominciare da Pierluigi, che il Milan società comunque in tutto questo casino una gran figura non ce la fa. È vero che mette una pezza a un buco che poteva essere pericoloso, però insomma, la chiarezza di idee e di programmi è un'altra cosa, mi pare, Pier. Sì, sicuramente, però insomma io credo che delle volte le cose nascono dalla teoria, no? Nascono dalla teoria, dal disegno. Altre volte le cose nascono dalla realtà, dall'esperienza e dalla pratica. E qui il Milan che verrà evidentemente nasce dalla pratica di queste settimane post lockdown, in cui la squadra si è ricompattata, in cui forse ne parlavo con un amico rossonero ieri, in cui forse all'inizio addirittura il fatto di non avere San Siro, che sappiamo che è un meraviglioso alleato quando le cose vanno bene, anche un bel tritacarne, sì. Ti può mettere anche pressione se sei in un momento molto difficile, non c'è niente di male, è talmente ben abituato, ecco, forse anche questo può aver aiutato, penso, soprattutto all'inizio. Poi la squadra ha preso grande fiducia e sta facendo cose fantastiche. Se posso dire, Carlo, certo, la storia del calcio italiano è piena di episodi di questo genere. Allora, il recentissimo calciomercato, Higuain e Dybala sul mercato, Dybala che non obbedisce al trasferimento al Tottenham e che diventa la pedina fondamentale del nono scudetto juventino, per non correre nel famoso episodio dell'Inter dei record di Trappattoni. Il centravanti doveva essere Magher, sì, e invece poi vanno a prendere Ramon Diaz e diventa la coppia più incredibile del campionato, Ramon Diaz Aldo Serena. Questo per dire che spesso le combinazioni del mercato, mettono insieme una tale formula chimica che è imprescrutabile, diciamo, agli occhi delle persone normali. Sì, ci sono tanti esempi, ma di così clamorosi non me ne ricordo nemmeno i due sopracitati, perché qui sono mesi, da gennaio che si dice che la storia di Pioli è finita, che comincia quell'altra era, che Ibrahimovic è arrivato ma poi va via. Ecco, su Ibra serve un capitolo a parte. 349 2386666 in questa crescita allora, fondamentale. È stato fondamentale. Ma Pioli, perché... allora, Pioli bravissimo, però secondo io continuo a pensare che il vero reagente chimico che ha trasformato la squadra in quella che stiamo vedendo ora, poi possiamo discutere sul peso specifico di queste partite, c'era un'Europa League da conquistare, insomma... Lui c'è sempre, fa mille cose... Indiscutibilmente lui! Sì, ma io infatti, però in questo, scusate... Mi rivendico perché le cose sono tutte astratte. È chiaro che è un investimento che dal punto di vista della filosofia non è il massimo, perché bisognerebbe investire sui giovani, perché però poi uno come Ibra è un'eccezione che conferma la regola. Cioè Ibra è l'eccezione di tutto, perché finché avrà voglia di giocare a pallone in questo modo, è uno che fa la differenza, la farà sempre, per quello che ti dà in campo, per come entra in tante situazioni, per la personalità che ha, per l'aiuto che dà ai compagni. Bravo, per esatto, la paura che mette esatto, agli avversari, esatto. Cioè, e anche ai compagni, tutta questa roba qui anche ai compagni. No, però alla fine si diceva Ibrahimovic quando è tornato, vabbè, spaccone lo sarà sempre, uno che non ingombrante, quello che vuoi, però si è inventato un nuovo ruolo con anche maggiore maturità, perché al di là appunto dei tweet, delle spacconate, di tutta questa letteratura che c'è, si è inventato un nuovo ruolo che è quello di vice allenatore giocatore. Poi si scazza con Pioli se quello lo leva, però fa parte delle regole del gioco, se non sarebbe Ibrahimovic sarebbe un'altra cosa. Scusate, volevo dirvi soltanto che siccome sono arrivato a Milanello e devo fare il mio pezzo di conferenza stampa, vi devo salutare. Ma cosa saluti? Va bene. Ma sei in orario? A che ora era? No, sono un po' in ritardo, ma perché c'è un gravissimo incidente sull'autostrada, ma so che mi stanno aspettando. Vai tranquillo, ciao, tanto adesso ti sostituiamo con Mario Iepo. Saluta Cibra se lo vedi. Grazie. Ciao Ciccio. Allora, ci fermiamo un istante, numero verde 800240024, WhatsApp vocali 349-238-6666. Poi è chiaro che c'è anche tutto il capitolo di mercato da affrontare sul Milan, perché tutto quello che abbiamo detto e scritto fino a ieri sera alle 10:30 non vale più. Più tardi sentiremo anche Luca Marchetti. Poi, altra domanda, e adesso Maldini? Cioè, rimane di sicuro? Nessun problema? Tutto a posto? Ne parliamo tra un attimo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Sto lavorando, sto bene, squadra sta bene. Ho visto classifica che siamo secondo o terzi, allora non è male. Nella vita si possono avere dei pensieri e si possono anche sbagliare. La programmazione. La programmazione poteva essere sbagliata. È segno di intelligenza, lo dico da juventino. Sì, per carità, resta il fatto che insomma si tratta di programmazione, non di una squadra di pallone, si tratta di programmazione aziendale, ed è qualcosa di insomma di un po' più complesso a parer mio. Comunque il vostro, messaggi WhatsApp 349-238-6666 e telefonate 800240024. Avvocato Iepo, buongiorno. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti. La tua idea qual è? In merito a questo clamoroso colpo di scena, esatto. No, non lo so, io martedì ero andato in sede a Milan e sinceramente l'area non mi sembrava di chi traslocasse, cioè nel senso mi sembrava la gente dal lavoro, chiaramente ancora in stand by, però come l'atmosfera era di chi non è che dovesse fare le valigie, c'erano i cartoni quella dentro la pianta come nei film americani. Esatto, non c'erano, no, a parte questo, ma la situazione credo sia un po' esposta in mano a Gattis, nel senso che in questo momento Milan sta facendo delle cose eccezionali, e quindi insomma ricominciare di nuovo con un progetto un po' da zero era un po' un salto nel vuoto, nel buio, scusa. E quindi credo che questo abbia fatto riflettere molto, no? Finalmente sembra che si sia costruito qualcosa, che si abbiano dei punti fermi, ricominciare ancora una volta da capo, magari anche per andare a esplorare, come dire, un nuovo pianeta sconosciute, sì. Però dove ci possono essere delle cose bellissime, ma ci si può perdere. No, è chiaro, sì, dovevi stanziare tanto tempo per un progetto che era totalmente diverso nelle linee da quello di quest'anno, ma pure da quello dell'anno scorso. L'unica cosa è che io ripeto, Pierluigi, vince Pioli certamente, vince, ma che poi non so se e fino a che punto i risultati del Milan del post lockdown siano stati l'unica motivazione che ha indotto la proprietà a questo cambio di rotta. Vince Pioli, vince Maldini certamente, vince Ibrahimovic, ma il Milan non so. Ma io penso che ci siano sicuramente, che i risultati abbiano una grande incidenza, sì, perché i risultati cambiano anche ovviamente l'umore, il modo di lavorare, il modo di stare in campo e i rapporti. Che Pioli sia una brava persona, capace di lavorare con gli altri, che sia anche un punto di riferimento. Io ripeto, l'esempio di Firenze è molto importante, perché Pioli anche a Firenze è stato un punto di riferimento fondamentale per i suoi ragazzi, impressionante, ti ricordi? Tra l'altro, certo, non certamente, ma insomma voglio dire, quello che lui ha fatto è veramente da uomo, non soltanto da allenatore, è veramente importante ed è ricordato con grandissimo affetto da tutti. Quindi questo è il punto di partenza, è un allenatore sicuramente di livello tecnico importante, ma è uno che insomma comincia ad avere una struttura di esperienze da grande squadra, quindi io penso che le due cose siano andate di pari passo. Poi è ovvio che i risultati sono stati un acceleratore enorme, se il campionato non fosse ripreso e il Milan non avesse vissuto questo splendido periodo, probabilmente, sicuramente avrebbe preso altre strade, Pioli non sarebbe rimasto sulla panchina, però insomma è il calcio, poi il calcio è continuamente condizionato dai risultati, insomma. Ricordate che Sacchi stava per essere mandato via, no? Sì, dopo la partita con l'Espagnol. E poi ha costruito. E ma vedi, lì fu la società, cioè fu Berlusconi, certo. Fu Berlusconi a fargli un muro alle spalle, ha detto: questo è l'allenatore, si certo. Va avanti con lui. Ma lì era stata diversa, era una storia completamente diversa, perché lì era un allenatore scelto, un allenatore di progetto, di prospettiva, con delle idee visionarie, che era stato preso e che ci poteva stare, che all'inizio facesse un po' fatica a costruire il suo calcio, e bene ha fatto in quel caso Berlusconi a difenderlo, e il Milan poi se l'è goduto per gli anni successivi. Qui la situazione è ovviamente molto diversa, qui si trattava di scegliere tra un progetto nuovo che, ripeto, poi cioè non è che si deve far passare adesso Rangnick per un pirla, tanto per dirlo alla milanese, nel senso che stiamo parlando di un'idea che aveva e avrebbe ancora un suo senso profondo, e che il Milan aveva individuato per costruire un futuro di discontinuità, però poi alla fine ha prevalso il riformismo, cioè ha prevalso l'idea che questa squadra, questo allenatore, questo ambiente, con qualche opportuno ritocco, con un po' di crescita e con 3-4 arrivi importanti mirati, possa proseguire in un percorso virtuoso. E non so come andrà a finire, però la probabilità c'è. Sì, certamente. Volevo chiedere a Mario invece la sua opinione su Maldini e Ibrahimovic. Siamo innanzitutto, Maldini, siamo sicuri che adesso tutto passato rimane, nessun problema, tutto confermato, la struttura attuale? E Ibrahimovic, a questo punto io farei di tutto per tenerlo in questa squadra con il ruolo che ha adesso, dicevo prima, da vice allenatore giocatore, comunque da elemento molto importante, anche perfino quando non gioca. No, per quanto riguarda Paolo, sai, io sono amico di Paolo, però non faccio mai, come dire, non chiedo mai cose di questo genere agli amici, e a chi è, perché sì, non voglio saperle, perché poi, come vedi, mi chiama la radio, eccetera, è meglio non saperle. Come giudizio dall'esterno mi sembrerebbe inverosimile mandarlo via in questo momento, insomma mandarlo via, che la situazione si chiude in questo momento, dove Paolo è 2 anni che fa il dirigente e sta diventando un grande dirigente. Sì. Lo dico da amico, però quando si parla di calcio con gli ex compagni non sempre si hanno le stesse idee. Sì, sì, chiaro, chiaro. Purtroppo io e Paolo abbiamo le stesse idee, ci troviamo sempre d'accordo su tutto, quindi io non posso che pensare che sia molto bravo a fare il suo lavoro, perché te la pensa come me, quindi purtroppo io la penso come lui, per dirla meglio. Quindi mi sembrerebbe inverosimile cambiare in questo momento, poi non lo so se è successo delle cose, ma non credo. Mario, che secondo me è importante, cioè sta diventando, perché questa cosa qui va detta ed è, se vuoi, un tabù da... Cioè, non è chiaro che a Roma si dice nessuno nasce imparato, che è chiaramente un errore, ma rende l'idea, no? Cioè, anche una leggenda come Maldini, è una persona intelligente sicuramente come Maldini, che anche quando era calciatore interpretava il calcio comunque con managerialità e intelligenza, però poi quando va a fare questo lavoro qui e si cimenta con un ruolo che è finalmente operativo e di responsabilità, all'inizio è un mestiere all'inizio è un esordiente. Quindi no, ma guarda, posso dire, svelare una cosa, Pier, che mi ha detto Paolo l'altro giorno. Guarda, io adesso vedo le partite in maniera diversa. Dice, ah, perché le vedi in maniera diversa? Perché adesso io mi soffermo sulle caratteristiche dei singoli giocatori, e prima non guardavo, perché prima guardavo la partita in generale, come giocava la squadra, eccetera. Adesso per mestiere mi rimane più impressa la caratteristica del singolo giocatore che come gioca la squadra, perché in questo momento gli interessa più vedere se un giocatore è bravo, determinate caratteristiche, dove fa fatica, dove invece ha i punti di forza. Cioè, è normale, certo, che si cambi, certo. Nella vita si deve imparare. Ma questo vale per gli allenatori e vale per i dirigenti, perché questo vale per la parte tecnica, vale per la comunicazione, esatto. Vale per i rapporti interni con la squadra, con gli altri dirigenti, con, certo, i rapporti esterni, tutto, con la stampa, col pubblico. Cioè, ci sono mille aspetti. Io però, insomma, una figura come Maldini, dell'intelligenza di Maldini e della storia di Maldini nel Milan, insomma, prima di farlo andare via, fossi in Milan ci penserei mille volte, ma non perché Maldini abbia diritto divino di dover lavorare al Milan, abbia diritto divino al Milan, perché sta producendo perché risultati. Credo che sia una risorsa, sia una risorsa, e credo che sia abbastanza. Sì. I giocatori di quest'ultimo anno hanno delle qualità importanti dentro, cioè quando tu vedi scattare Rebic. C'è qualcosa di del giocatore importante, se Hernandez, non dire che lo stiamo a ripetere, cioè hanno dentro qualcosa di più. Tu per vincere sull'avversario devi avere un'arma in cui, con cui tu lo annienti, no? Se tu hai tutto medio, alla fine fai fatica. Tu puoi avere un difetto, ma un grande pregio, con quel pregio fai male. Mario, i giocatori sono scelti così. Su Ibra, il tuo pensiero invece qual è? Io penso che in questo contesto di ristrutturazione, ma di conferma di un gruppo, Ibrahimovic sia una parte importante di questo gruppo. Ma guarda, Ibra che potrebbe fare molto di più di quello che sta facendo, perché solo l'odio gli fate, invece fa troppo ogni tanto il farfallone, cioè si diverte a giocare, invece potrebbe andare più per il sodo e vincerle tutte come è, perché ancora è in grado di fare moltissimo. Io lo vorrei sempre in squadra con me, non esiste 40 anni, c'ha un fisico che può giocare fino a 50 anni, a parte l'infortunio, però insomma non è che scada dal punto di vista della competitività, è strabordante fisicamente. Io lo vorrei, poi le società hanno tanti altri problemi, ingaggi, cose, certo, questo è un altro discorso, però se potessi averlo io lo vorrei sempre. Ma il suo ruolo, dicevo prima, è andato oltre il quello che ha prodotto, oltre il fatturato in campo, perché è stato nell'atteggiamento che secondo me è stato particolarmente importante in questo momento del Milan, per arrivare a questo, certo, punto del percorso. Già ha cambiato la prospettiva, la prospettiva vincente, non la prospettiva di sopravvivenza che c'era prima. Sentiamo un ascoltatore anche, prima di salutare Mario Ielpo. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi, buon pomeriggio. Telefono da Bari. Sì, Monopoli, provincia di Bari. Stasera abbiamo ambientato Romagna. Abbiamo la finale con la Reggiana. Stasera c'è Reggiana a Bari, ci ho ambientato il romanzo a Monopoli. Qualità totale, assoluta. Assoluta. Prego. Salve, no, niente, vi volevo collegare alla notizia bomba. Ieri eravamo tutti nel club a Monopoli, essendo un socio del Milan Club di Monopoli, e niente, la notizia bomba del rinnovo di contratto di Pioli l'abbiamo presa tutti quanti bene, dal primo all'ultimo, perché ricominciare una nuova stagione con un nuovo tecnico, con una nuova dirigenza, quando si sono delineati i giusti equilibri, diciamo, nella squadra e in società, è buono andare avanti con questa scelta. Tenga presente che appena è arrivato mister Pioli non è che aveva tutte le nostre preferenze, io compreso, Chiusa abbiamo preso, volevamo tutti Spalletti, sì, volevamo il fenomeno. Invece alla fine mister Pioli ha lavorato sempre in silenzio, anche guardi, quando l'hanno stuzzicato su qualche domanda, assolutamente, è sempre in equilibrio, assolutamente. Guardi, con le sue risposte. Io la ringrazio perché ha espresso in modo perfetto l'opinione del milanismo. Io voglio chiedere, per chiudere con Mario Ielpo, quanto peso può aver avuto l'opinione pubblica milanista, che è questa, quella che abbiamo sentito adesso nella conferma di questo corso? Ma io credo che Pioli ci abbia conquistato a tutti. Io l'ho incontrato personalmente solo una volta alla festa dei 120 anni del Milan, mi ha fatto una grandissima impressione. Ci ha conquistato come persona, diciamo, fuori dal campo, come umanità, ma ci ha conquistato con il gioco. Ragazzi, quante partite abbiamo visto noi tre? Un miliardo? Cioè, non lo so, io... comunque non lo so, fate voi, non abbiamo quello nessuna intenzione di smettere, cioè adesso ho avuto 3-4 partite del Milan dove, a prescindere dal risultato eccetera, mi sono divertito, ma era tantissimo che non mi divertivo. Verissimo. A vedere una partita di calcio, ragazzi, vero, e questo vero. Ha conquistato tutti. Un'ultima osservazione, mi sia permesso, a me ricorda molto l'allenatore a cui sono più affezionato e quello dei più bravi che ho avuto, cioè Claudio Ranieri, cioè un allenatore che per tanti motivi non ha mai goduto delle stime del predestinato e quindi o dell'innovatore o del genio, e per cui ogni volta si deve conquistare con dei risultati strabilianti quello che invece dovrebbe essere riconosciuto di diritto. Sì. Cioè, ricordiamoci che Ranieri è stato considerato un perdente, salvando il Parma, vincendo due campionati con il Cagliari, vincendo, cioè finché non ha vinto con il Leicester per sbaglio, perché quella vittoria per sbaglio, era un perdente, quando aveva fatto in carriera dei miracoli veri. Sì, però anche il fatto di riuscire ad esempio quest'anno a fare quello che ha fatto la Sampdoria, non sarà uno scudetto, non sarà una, certo, una coppa, però è una vittoria, è una vittoria. Ragazzi, importante, è un doppio scudetto quello che ha fatto. Insomma, salvare in questo modo la Sampdoria con il cammino che ha fatto è una vittoria sportiva a tutti gli effetti. È un allenatore, certo, di altissima percentuale di successi. Il successo non è sempre vincere il campionato, dipende ovviamente dal tipo di, certo, di squadra che ha a disposizione, da quello che è l'obiettivo. Insomma, Ranieri è uno ad altissima percentuale che quasi sempre in carriera ha ottenuto il risultato che gli era stato chiesto, quindi questa è una garanzia assoluta. Grazie Mario. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, fermiamoci per la borsa, poi torniamo. Ascoltatori 80024 0024, numero verde. Ma i 100 milioni li tirano fuori comunque, anche se non arriva Radnik. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Di cosa stiamo parlando? Ciccio può dire tutto quello che vuole. Il Milan ha provato a fare un accordo con Radnik, ha capito che gli costava un sacco di soldi, sia lui come allenatore manager che come investimenti che pretendeva, e ha detto: ma Pioli sta andando bene, teniamoci Pioli, va. Finalmente un caso italiano dove c'è un po' di meritocrazia, ragazzi. Farei un monumento in questo momento a questa società che ha avuto il coraggio di cambiare idea e dare i meriti a chi li aveva. Ma sto Gasperini non è che ha tante simpatie in giro per il mondo, qua ne combina una ogni altro giorno qua. Opinioni dei nostri ascoltatori 349-238-6666. Molti vogliono sapere il mercato del Milan, come cambia, se i famosi 100 milioni ci saranno ancora, non ci saranno più. Tra 5 minuti convochiamo Luca Marchetti e ci facciamo spiegare tutto. Intanto Dario Bergamo, buongiorno. Grazie signor Carlo, sono contento che... intanto sono felicissimo per Pioli, io non sono milanista, sì, ben chiaro, sono atalantino, perché le persone per bene vanno premiate, sì. Punto. No, ma poi ha centrato il punto prima. Certo. Settimana scorsa. No, ma su questo, senta, io, su questo, voglio Dario, parlare di una cosa, sì, che purtroppo non è polemica, però è un dato di fatto. Vorrei dire, visto che c'è lì il signor Pardo, siete sempre collegati, anche il Franco, sì, Ordine, eccetera, eccetera. Io dico, provate a vedere una cosa sola però. Cioè, faccio un esempio pratico, mi lasci per favore fare il mio concetto perché è importante. Faccio un esempio sul calendario, perché ci sono state in questi giorni, a me non interessa l'Inter, Milan, Juve, quello che è. Però dico, quando vedo la Juve ha iniziato, diciamo, le otto giornate, ha iniziato ad aprire lei, no? Quando è stato ripreso dopo il lockdown. Ho visto che però ha finito l'ottava giornata per ultima. La Juve, prendete il calendario in mano e fate i conti in mano. Poi le faccio due esempi, sono veloci veloci, e dopo. Perché lei ha guadagnato 3-4 giorni su tutte le altre squadre di riposo, parlo di riposo. Sembra una cretinata. Guardi, io le dico, sono non vedente da 30 anni, poi mi hanno diagnosticato la generazione delle tecniche, eccetera. Però ho fatto sport a livelli proprio competitivi. Io ho provato, se lei fa 20 km di corsa, ha giocato anche a calcio, sia ben chiaro. Se lei li fa dopo 3 giorni, vede la differenza di farli dopo 3 giorni, dopo 4 giorni. C'è proprio un... Capisce il sacrificio che deve fare e capisci che non può dare tutto, più di quello che è. Io le faccio solo un'ipotesi a tutti gli ascoltatori, diciamo, di calcio, tutte le squadre, compreso la Juve. Io dico, provate a vedere, l'Atalanta ha giocato 3 giorni prima della Juve e ha dato una lezione di calcio alla Juve. Al di là poi dei rigori, che secondo me poi due rigori alla Juve contro ne avrebbero dati, uno avrebbero sorvolato, questo è chiaro. Sì, no, ma poi Dario, allora sulla questione dei calendari ne abbiamo discusso molto. Sui calendari, Juventus, certo, però sui calendari, ragazzi, cioè non è che i calendari vengono decisi da una società, cioè si incontrano, cioè, quindi voglio dire, ci sono tutti i dirigenti di tutte le società, si mettono lì e fanno i calendari, cioè per noi è molto difficile. La tabella l'abbiamo fatta, l'abbiamo vista su tutti i giornali, dopo la polemica di Conte l'altro giorno tutti hanno riportato la tabella. Oggettivamente, per esempio, l'Inter ha avuto meno giorni di riposo, questo è oggettivo, però ripeto, stanno lì, si incontrano, si riuniscono, decidono gli orari e non lo so, se volete compriamo i diritti televisivi delle riunioni di Lega, così vediamo come va a finire, potrebbe essere divertente, insomma. No, ma poi hanno iniziato anche subito con la Coppa Italia, sia l'Inter che Sì, poi c'era questo fatto che per esempio Inter e Atalanta avevano la partita da recuperare, immagino che questo abbia portato a cominciare prima e abbia reso ancora più compresso il calendario, perché Inter e Atalanta hanno fatto una partita in più rispetto alla Juve, ma semplicemente perché c'era una partita da recuperare, che era quella che era saltata, quindi insomma Non ci vedrei sempre comunque la malizia e la malafede, il magheggio, insomma, tanto più che, ripeto, riunioni di Lega sono riunioni collettive, quindi se uno gli sta bene una cosa può avere gli strumenti. Poi era fatale comunque in questa ripresa, era fatale il fatto che ci fosse un tour de forte di giocare. Ma poi sul principio sono d'accordo, sul fatto che quando giochi così tante partite un giorno in più di riposo può darti un vantaggio, questo non c'è dubbio. È fondamentale. Alessandro Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Io sono milanista e curioso e ovviamente molto contento del fatto che Pioli sia stato confermato, persona deliziosa, mi è sempre piaciuta. Sono un po' perplesso su un paio di cose. La prima è che, non lo so, mi sembra strano che c'erano delle indicazioni su Rangnick che doveva venire, però chiedeva più soldi, però sembrava che ci fossero delle complicazioni per svincolarsi e compagnia, quindi sembra un po' una scelta del tipo non ho avuto modo e quindi dico che ho scelto Pioli perché mi fa comodo così. La seconda invece è appunto sulla campagna acquisti, chiarissimo che l'anno prossimo si chiederà loro ancora di arrivare quarti almeno per poter arrivare in Champions. Obiettivamente non è una cosa facilissima perché ci sono squadre nettamente più strutturate di noi e che hanno nettamente più modo di poterci arrivare. Domani saremo ancora come l'anno scorso con Gattuso, che sembrava un secondo da poterci arrivare, non ce l'ha fatta, noi ad aspettarci che venisse riconfermato, e poi no, si ribalta tutto quanto un'altra volta, perché non si avrà tempo di aspettarlo, perché si penserà, no, rifacciamo, ribaltiamo. Sì, e poi dovesse venire fuori ancora il discorso del si vende la società perché Elliot vuole appunto far cassa e rivendere ancora un'altra ennesima rivoluzione. Mi sembra un po' che si stia festeggiando per... Allora, facciamo ovviamente così. Sono contento. Le faccio rispondere da Luca Marchetti. Beh, Lupus in fabula. Ciao. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Eh sì, perché la seconda... Difficilissima questa domanda. Sì, ma d'altra parte è quella che si fanno... Se vuoi ti faccio vedere i messaggi. Sì. Beh, la prima parte della domanda è più facile, La prima parte è più facile. La prima parte della domanda è più facile, ma è comunque molto, molto, molto complessa la risposta. La domanda ce la siamo fatta tutti. A mio avviso c'è stato un combinato tra gli ottimi risultati che ha conseguito Pioli in un momento anche particolare, ma comunque ritrasformando il Milan, dandogli una grande identità, un bel gioco e ottimi risultati, a fronte di una serie di difficoltà che sono nate, che forse ci sono sempre state, ma che comunque il Milan avrebbe digerito, fra virgolette, in virtù di una grande rivoluzione. Probabilmente con l'andare del tempo e soprattutto in questi ultimi giorni, perché questa cosa di Pioli, lo ha detto lui stesso ieri sera, lo hanno avvertito lunedì che avrebbe rinnovato il contratto, quindi stiamo parlando veramente di una cosa di pochi giorni fa. Probabilmente c'è stato qualche episodio che ha complicato la trattativa Ragnik, che andava avanti da mesi, quindi non è, sai, una cosa a cuor leggero. Ma i risultati di Pioli, Pioli ha avuto il grandissimo merito di mettere in discussione nella testa di Elliott e quindi nella testa anche di Gazzidis una scelta che è stata maturata per 6 mesi. Sì. Quindi qualche cosa tra Ragnik e il Milan è successa. Pioli ha avuto la grande forza, anche di più di qualcosa. Per forza, Pioli ha avuto il grandissimo merito di potersi insinuare in queste crepe, farle diventare talmente grandi e poter dire: ma chi me lo fa fare, prendo Pioli, magari è pure più bravo. Un'ultima battuta con Pierluigi Pardo su questo punto, magari per rispondere all'ascoltatore, poi lo saluto così non ci ascolta, mentre Luca Marchetti e io parleremo alle sue spalle per il tempo restante di tutti i combattenti. La condizione migliore. Un classico. No, sul mercato ho anch'io dei dubbi. Ho dei dubbi nel senso che comunque sia, adesso ovviamente si festeggia appunto la meritocrazia. Io ribadisco il punto di partenza. Credo che quello sia la chiave del esatto. Ovviamente bisogna capire che Milan sarà, perché se questa cosa qui poi significa che ci si accontenta, non va bene per niente. Milan è il Milan, io penso che ci sia un progetto di crescita, penso che lo stesso progetto di costruzione graduale che si pensava di cominciare con Ragnik possa essere portato avanti da Pioli. Non mi aspetto, però adesso vi ascolto con Luca, non mi aspetto delle rivoluzioni dal punto di vista dei budget, purtroppo per il Milan, però mi aspetto una linea intelligente di crescita continua e graduale, e diceva prima giustamente Mario, non bisogna sottovalutare il mercato degli ultimi mesi, perché è stato un mercato non clamorosamente squillante in termini economici, ma alla fine il Milan oggi si trova con un tesoretto di giocatori che qualche mese fa non sembrava di poter avere. Hernandez lo mettiamo su tutti, Rebic ha dimostrato di essere un giocatore importante, ma anche per esempio Bennacer, che era arrivato con 1000 titubanti, oggi è diventato un giocatore importante lì nel mezzo, quindi gli esempi non mancano. Paradossalmente Leao forse è quello che è stato più costoso, bisogna aspettarlo, è giovane, ha bisogno di tempo, però insomma probabilmente è l'investimento che sembrava potesse già nell'immediato dare qualcosa di più e invece non lo sta dando, quindi insomma, il quadro è incoraggiante e non è una rivoluzione è una rivoluzione, però si tratta a questo punto di capire le linee del mercato del Milan che verrà. Allora saluto Pierluigi Pardo e Luca Marchetti, ce le racconta subito dopo il traffico. Ma quando Pardo sparisce, cosa fa? Dove va? Con chi sta? Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Allora, cosa fa Pardo quando sparisce? Luca Marchetti lo sa, ma non ce lo dirà mai. Sì, mangia. Avevo anche questo sospetto. Sì, lo mangio, canta, dai. Senti, invece, il mercato del Milan che verrà, cosa succede adesso, Luca? Perché questa è la domanda numero uno che si fanno tutti i contenti tifosi rossoneri in questo momento. Ma forse anche gli scontenti, non lo so se ce n'è qualcuno discontento, obiettivamente non lo possiamo sapere, sinceramente questo cambio di direzione repentino da parte della dirigenza, anzi della proprietà rossonera, intanto ha portato una variazione su un piano aziendale, perché io Ragnik l'ho sempre definito un piano aziendale, perché era un investimento da almeno 300 milioni di euro per i successivi 3 anni. Non è semplicemente un club di calcio e un allenatore di pallone, eh? Era una scelta aziendale precisa. Esatto, filosofica all'interno del Milan, in cui erano coinvolte tutte le parti di una società, dai medici ai massaggiatori, dal mercato al campo. Ora il Milan decide, legittimamente, perché come era legittimo che potevano decidere di cambiare tutto, poi cercheremo di capire le cause, perché quando cambi una filosofia aziendale devono esserci, mi auguro, dei fondati motivi, oltre agli ottimi risultati di Pioli. Chiaro. Pioli si è strameritato sul campo, però una società, una proprietà, quando fa un cambio del genere non può basarsi solo sui risultati. Ed è questa la mia perplessità, perché se fai un piano aziendale devi analizzare anche le coperture finanziarie che ti servono. Insomma, assolutamente. Non è che decidi lunedì di confermare Pioli perché ha vinto 3 partite. La grande differenza, è che non è che a posto di Pioli sarebbe arrivato Spalletti, Mourinho o Guardiola, cioè un allenatore. Qui arrivava un dirigente che faceva anche l'allenatore, che avrebbe preso, non so se chiavi in mano o meno, ma comunque avrebbe diretto la parte sportiva di tutto il Milan. Quindi stiamo parlando di un progetto enormemente più ampio di una panchina. Sì. È chiaro che se noi parliamo soltanto della panchina, Pioli si è strameritato la conferma, senza dubbio, e avrebbe messo in discussione qualsiasi allenatore il Milan avesse avuto in mente. Qui il Milan è riuscito a scardinare, cioè Pioli è riuscito a scardinare un progetto. Adesso è evidente che ci sono state delle problematiche anche da parte della trattativa con Ragnik, altrimenti una situazione del genere non la scardini solo perché, tra virgolette, solo hai vinto 7 partite delle ultime 9, no? Che sicuramente ha avuto un grande peso. Quindi dire oggi il Milan cambia mercato è certamente vero, perché tutte le cose che abbiamo detto riguardo al Milan del futuro, quindi investimenti su giovani eccetera eccetera, erano figlie di un progetto targato Ragnik, e questo non significa che i giocatori che ha seguito finora il Milan con il suo scouting non vanno bene, anzi, ma per esempio le prime cose che mi vengono in mente sono che riguardano Ibrahimovic. Ibrahimovic con Pioli ha un grande legame, e a mio avviso oggi Pioli, se può spendere una parola per Ibrahimovic, e immagino e spero che lo possa fare, Ibrahimovic rimarrà al Milan. Oggi ti dico questo, poi siccome il Milan ci ha abituato a cambiare idea in 24 o in 48 ore, magari poi anche Ibra ha un percorso diverso, però il gruppo di Pioli a questo punto rimane, se c'era qualcuno che doveva andare via, probabilmente non andrà via. E sui nomi dei giocatori da prendere, lo scouting sarebbe rimasto lo stesso, quindi non è che hanno seguito dei giocatori che non avrebbero potuto giocare nel Milan o che non giocherebbero nel Milan di Pioli. La mia sensazione, ma qui veramente parliamo soltanto di sensazioni, è che il budget che avrebbe avuto a disposizione Ragnik probabilmente non sarà quello che avrà a disposizione questo Milan qua. Cioè sarà inferiore? Secondo me sì, ma ripeto, qui entriamo nel campo delle opinioni e non delle notizie. Sì. Quindi è una mia sensazione di oggi che può cambiare rispetto a quello che abbiamo vissuto Intanto, si tratta di comunque confermare alcuni giocatori, perché la vicenda Donnarumma credo che dovremmo affrontarla tu in particolare nei prossimi giorni. È anche tardi forse. Esatto, la vicenda del rinnovo di Donnarumma è lì sul tappeto da risolvere. Teo Hernandez ha richiesto da ovunque, soprattutto dal Paris Saint Germain. Che si potrebbe piacere a molti, insomma sono diversi i giocatori che anche qui per il lavoro di Pioli sono stati resi appetibili dal mercato. Ma guarda, Teo Hernandez secondo me rimane, perché è un investimento che il Milan ha fatto lo scorso anno, è un giocatore che può crescere ancora e che avrà comunque mercato, perché ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Ibra, te l'ho detto, secondo me il suo barometro volge verso il bello per la permanenza al Milan. Donnarumma ha una grande differenza rispetto a tutti gli altri giocatori che sono in scadenza contratto. Ieri ha festeggiato le 200 presenze con la maglia del Milan. È il più giovane ad averlo fatto nella nostra Serie A. Lo ha fatto tutte con la maglia del Milan, anche in confronto ai vari Totti, Bergomi, cioè Bandiere, che hanno fatto la storia delle rispettive società. Lo ha fatto prima. Ma secondo te, conoscendomi Raiola, accetterebbe un rinnovo al ribasso? No. No. Nessuno secondo me può rinnovare al ribasso, perché non sarebbe neanche giusto. Donnarumma quei soldi non è che li ha rubati, Donnarumma li ha meritati, perché è uno dei giocatori più importanti al mondo nonostante abbia 21 anni. Detto questo, ci sono mille soluzioni per arrivare a un accordo con Donnarumma, anche fantasiose se vuoi, perché il Milan ha un grande alleato in questa trattativa, che è l'affetto che Donnarumma prova nei confronti del Milan. Donnarumma non lascerà il Milan andando allo scontro. Donnarumma, se dovesse mai lasciare il Milan nella sua carriera, sarà lo farà per tanti soldi, cioè, e per tanti soldi che potrebbero permettere al Milan di fare altre cose. Quindi questo è il senso. Va bene, Luca, io ti ringrazio, ti saluto insieme a un tuo amico di Terni, tale Gigi, che ti saluta dalla Sardegna. Quindi io mi limito a riportare questo WhatsApp. Di Gigi. È Ternano o Sardo? No, è Ternano. Ah, allora. È Ternano da Terni. Un grande saluto dalla Sardegna a Luca Marchetti. In tutto il mondo. Ciao Luca, grazie. Ciao, grazie. Davvero Luca Marchetti da Sky. Io ringrazio anche Claudia Schiattone, ringrazio Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato in contumacia, ma autore dei montaggi per questo programma. Ci sentiamo tutti convocati domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.